GR24, il sole 24 ore. Positiva l'asta dei BTP italiani, tutti assegnati, stabile lo spread. Tassisti, scatta la rivolta selvaggia, dal governo intanto giro di vite sulle auto blu delle istituzioni, degli enti locali. Lavoro, posizione unitaria per CGIL, CISL e UIL, sindacati uniti al confronto col governo ma senza articolo 18. Vigile ucciso a Milano, rintracciato il SUV, ora è caccia ai due che erano a bordo. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque apriamo occupandoci della situazione sui mercati finanziari con le tre importanti aste che hanno riguardato i BTP italiani. Sentiamo come è andata e come sta andando la giornata sui mercati. Con Deborah Rosciani, buongiorno ancora. Sì, Deborah. Buongiorno. Allora, c'era grande attesa anche oggi per questo secondo appuntamento dell'anno del Tesoro italiano, che doveva collocare sul mercato BTP a 3 anni e a 7 anni complessivamente per un importo pari appunto ad oltre 4 miliardi di euro. Sono stati assegnati tutti e 3 miliardi in offerta di BTP a 3 anni con scadenza novembre 2014 e titoli appunto in asta a 3 anni con scadenza luglio 2014. La buona notizia è che i rendimenti sono risultati in ribasso. Per il BTP con scadenza novembre il tasso è scivolato al 4,83% dal 5,62% di fine dicembre. Per l'altro titolo il tasso è risultato in discesa al 4,29%. Ora, cos'è successo sui mercati? Che in concomitanza, in attesa di questa asta, lo spread, il differenziale di rendimento fra titoli italiani e titoli tedeschi, risultava voler mantenere la tendenza intrapresa ieri, cioè essere scivolato sotto i 500 punti base. Stamattina è arrivato anche a 4,60. L'asta però, che è andata bene, non ha avuto un esito entusiasmante come quelle di ieri, quando il Tesoro ha collocato sul mercato importi e titoli a molto più breve scadenza. Ci si aspettava probabilmente tassi in ribasso più accentuati e quindi lo spread ha ripreso a salire. Siamo a 480 punti base con il tasso del decennale sul mercato secondario al 6,61%. La borsa, che andava molto bene alla vigilia dell'asta, Milano è arrivata a guadagnare oltre un punto percentuale, ha rallentato il passo. Il FTSE MIB adesso segna un più 0,38%, Londra più 0,21%, Parigi più 0,9%, Francoforte più 0,4%. Per fortuna continuano a correre i titoli bancari, che sono stati molto sotto pressione nelle settimane precedenti. Siamo nella settimana dell'aumento di capitale di Unicredit, per questa operazione il titolo è stato tanto bastonato, oggi continua a recuperare come ha fatto negli ultimi 2 giorni. Più 2,62% in questo momento, anche se il miglior titolo è Mediobanca più 4,38%. Rapidamente l'altra grande operazione al centro dell'attenzione questa mattina, l'offerta pubblica di acquisto dei bolognesi di Unipol su Premafin, la holding di controllo del gruppo Ligresti Fondiari Assai. Volano tutti i titoli, i migliori sono proprio i Premafin che guadagnano il 19%, i titoli fondiari a più 10%. È tutto. Grazie Deborah Rosciani, e proprio di questo parliamo adesso, cioè della lettera di intenti tra Unipol e la famiglia Ligresti per l'integrazione tra Unipol, Fonsai, Premafin e Milano Assicurazioni. Unipol rileverà il 51,3% dei Ligresti in Premafin e lancerà così un'OPA sulla stessa Premafin. Sentiamo. La storia si chiude, Ligresti e figli escono dal teatro della finanza italiana con in tasca 77 milioni di euro. Tanto è disposta a versare Unipol per rilevare la quota dell'ingegnere e famiglia in Premafin, il 51,3%. Una discreta somma che permetterà alle future generazioni Ligresti di vivere nell'agio. Oggi però si consuma l'addio definitivo del geometra di Paternò ai mercati e all'edilizia, soprattutto quella milanese. Un addio lungo e sofferto perché i problemi erano sul tavolo da mesi. Per definire le condizioni di uscita sono servite 6 ore, un vertice nella sede di Unicredit, al quale hanno partecipato Ghizzoni, AD di Piazza Cordusio, Nagel e Pagliaro, AD e presidente di Mediobanca, Ligresti, i tre figli e Ignazio La Russa, amico di famiglia. Un dettaglio che racconta di come l'ingegnere sia sempre andato d'accordo con certa politica, tanto che ora sembra quasi stucchevole constatare come il tramonto dell'era berlusconiana coincida con la fine della galassia del siciliano che arrivò a Milano nei primi anni 60. L'operazione è stata messa a punto da Mediobanca, esposta verso Fonsai con un bond da oltre 1 miliardo, e da Unicredit, maggiore creditore del gruppo e azionista di Fonsai. Se andrà in porto, nascerà il secondo gruppo assicurativo italiano dopo Generali. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora apriamo una lunga pagina politica. Cominciamo dal giro di vite del governo sulle auto blu per gli organi costituzionali e gli enti locali, con un decreto del Presidente del Consiglio presentato dal ministro Patroni Griffi. Il governo si allinea infatti ad una ordinanza del TAR. Nel mirino ancora le auto blu, ma questa volta il governo interviene per decreto del Presidente del Consiglio dietro sollecitazione del Tribunale Amministrativo e Palazzo Chigi. Non manca di sottolineare che grazie al provvedimento il governo ritiene che le modifiche introdotte permetteranno di conseguire risparmi significativi nella spesa pubblica per le autovetture di servizio e di rappresentanza. Il decreto presentato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Filippo Patroni Griffi è stato quindi trasmesso al TAR per dare seguito all'ordinanza del Tribunale Amministrativo del novembre scorso, che imponeva la revisione della precedente normativa sulle auto blu in alcuni punti, a partire dalla sua obbligatorietà. E ora la revisione prevista dal decreto Monti riguarda anche le regioni e gli enti locali, ma il governo fa un passo in più, modifica il precedente provvedimento che impone l'utilizzo alternativo dei mezzi di trasporto pubblico solo quando ne venga assicurata uguale efficacia, ed elimina anche la norma che concede alle amministrazioni un termine di 30 giorni per la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della acquisto della presa in possesso di un'autovettura. Tempi e cordoni della borsa più stretti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani del voto su Cosentino, ancora le reazioni. Sono amareggiato e un po' deluso, ma non smetto di credere di lavorare per la Lega che ho contribuito a costruire in oltre 25 anni di attività politica. Risponde così Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno, con un post scritto sul suo profilo di Facebook ai tanti suoi amici che gli hanno manifestato solidarietà dopo il voto sull'arresto di Nicola Cosentino. Maroni aveva detto che avrebbe votato a favore dell'arresto e invece poi la Lega si è divisa su questo. Intanto su Radio Padania monta la protesta della base leghista appunto dopo il voto di ieri. Oggi però sul fronte politico c'è un'altra notizia importante. Monti, il Presidente del Consiglio, rilancia l'azione del governo con una serie di incontri con i partiti che sostengono il suo governo in Parlamento. E allora sentiamo come sta andando questa giornata in diretta con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Il primo incontro dovrebbe iniziare a breve a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio Mario Monti si prepara infatti a ricevere la delegazione del Terzo Polo alle 15. Sarà la volta del Popolo della Libertà, mentre il Partito Democratico sarà ricevuto alle 18. Tema dei tre colloqui, la cosiddetta fase 2 dell'esecutivo, quella dedicata alla crescita, impulso al prodotto interno lordo che, opinione diffusa, deve necessariamente passare attraverso liberalizzazioni ed aumento dell'occupazione. Su entrambi gli argomenti l'esecutivo ha agito anche autonomamente, sarebbero già pronte diverse linee di intervento. C'è tuttavia la consapevolezza a Palazzo Chigi che le misure non possono realizzarsi senza i voti sufficienti in Parlamento, di qui la necessità di queste consultazioni. Gli stessi partiti dell'attuale maggioranza hanno auspicato un loro maggiore coinvolgimento. Le liberalizzazioni sarebbero indigeste a parte del PDL, così come gli interventi sul mercato del lavoro creerebbero più di una preoccupazione nel PD. Il clima oggi tuttavia tra le forze politiche sembra essere quello giusto. Per assurdo la bocciatura del referendum da parte della Consulta e la chiusura per il momento della vicenda Cosentino tolgono più di un imbarazzo sia al centrodestra che al centrosinistra. Anche lo stesso governo avrebbe delle grane in meno, forte poi della fiducia ricevuta ieri dai mercati. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. E per quanto riguarda l'azione del governo, i due fronti sono il mercato del lavoro e le liberalizzazioni. Di queste parleremo tra un attimo. Cominciamo invece dal mercato del lavoro, perché la notizia di oggi è che i sindacati hanno preparato una piattaforma unitaria in vista del nuovo incontro con il governo. Ci racconta tutto Andrea Viali. Buongiorno. Sì, buongiorno Alessio. CGIL, CISL e UIL auspicano l'apertura di un vero confronto con il governo sulla riforma del mercato del lavoro e non iniziative unilaterali come è accaduto per le pensioni. Dopo aver visto singolarmente nei giorni scorsi in modo informale il ministro Fornero, questa mattina i segretari generali delle tre confederazioni si sono incontrati nella sede della CISL e, come dicevi, hanno raggiunto un accordo su una piattaforma comune i cui dettagli tecnici verranno messi a punto la prossima settimana. Camusso, Bonanni e Angeletti hanno concordato sul fatto che è necessario allargare il confronto con l'esecutivo anche alla questione della crescita, perché senza interventi su questo fronte, dicono, sarà difficile far ripartire investimenti e assunzioni. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i sindacati chiedono soprattutto misure per incentivare le assunzioni di giovani e over 50 che hanno perso l'occupazione, chiedono anche di estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori e rendere meno vantaggiosi i contratti che alimentano il lavoro precario, resta invece la loro chiusura a modifiche dell'articolo 18 e a questo proposito l'auspicio di CGIL, CISL e UIL è che il governo smentisca le indiscrezioni trapelate in queste ore che, se confermate, dicono farebbero naufragare prima dell'avvio il confronto con il sindacato. Per ora dalla CISL è tutto, Alessio. Grazie anche ad Andrea Viali. Adesso dicevamo le liberalizzazioni, mentre il governo non ha ancora scoperto del tutto le sue carte, vanno avanti le proteste, in particolare quella dei tassisti con il blocco totale dei taxi a Roma. Gentile cliente, siamo spiacenti, ma in seguito ad un'assemblea spontanea dei tassisti non siamo in grado di assicurare il servizio. È la risposta chiamando questa mattina il 3570 la prima cooperativa di taxi romana. Il blocco nella capitale quasi totale, niente auto bianche né a Termini né a Fiumicino. Il servizio funziona solo per anziani e malati. Uno sciopero selvaggio senza autorizzazione né preavviso, nato dalla base, proseguito nonostante gli appelli ripetuti del sindacato a riprendere il servizio. E intanto di fronte a Palazzo Chigi 200 tassisti si sono riuniti questa mattina per manifestare senza striscioni né slogan né bandiere, ma la rabbia c'è. Alcuni di loro si scagliano contro un collega in servizio prendendo a calci la sua auto. Siamo servizi essenziali come le ambulanze, non siamo una lobby, siamo gente che lavora per uno stipendio, 50 euro al giorno. È un servizio che funziona, non c'è bisogno di ritoccare assolutamente il servizio taxi, assolutamente. E intanto la commissione di garanzia sugli scioperi sta valutando l'ipotesi di un'ordinanza di precettazione relativamente ai disordini e alle proteste dei tassisti che si stanno verificando non solo a Roma ma anche a Milano, a Napoli e in altre città. Ieri l'autority era già intervenuta considerando illegittimo il fermo totale del servizio taxi prospettato per il 23 gennaio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in primo piano resta anche il dibattito sulla lotta all'evasione fiscale. L'intervento del garante della privacy che dice stiamo consentendo all'Agenzia delle Entrate di avere e incrociare informazioni molto al di là delle normali funzioni di un soggetto incaricato del controllo ai fini fiscali. Così appunto il garante della privacy, Francesco Pizzetti, secondo il quale tutto questo è accettabile solo in nome della lotta all'evasione fiscale. Ma quando, specifica ancora, il risultato sarà stato raggiunto, bisognerà pensare al rientro da una forma di controllo così incisiva. E adesso è il momento per l'appunto della nostra rubrica sul paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Adriano, l'ex imperatore dei campi di calcio italiani, ha patteggiato e alla fine il calciatore ha sborsato al fisco 36.000 euro, per lui noccioline. Peccato che abbia trascinato con sé anche l'Inter e ora sulla società è aperto un fascicolo giudiziario per evasione fiscale davanti alla procura di Como. Non avrebbe versato ritenute per oltre 7 milioni di euro e avrebbe scaricato dalle tasse, secondo gli ispettori del fisco indebitamente, costi per una cifra complessiva di 16 milioni. Si vedrà chi ha ragione. Di sicuro gli 007 del fisco, come sta accadendo anche in Inghilterra, marcano stretti i calciatori e la società, come spiega Luigi Magistro, numero 2 dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo disposizioni che addirittura impongono di trasmetterci telematicamente tutti i dati sui contratti dei calciatori. Proprio lo teniamo sotto controllo costante. Qualche anno addietro abbiamo avuto dei grossi problemi per omessi versamenti, perché avevano crisi di liquidità. Ci sono varie problematiche, dato che i volumi d'affari sono ingentissimi, li monitoriamo proprio costantemente. A settembre c'è stato il caso delle false sponsorizzazioni sportive nel mondo del calcetto a Vicenza. L'Agenzia delle Entrate ha scoperto 65 imprese che tramite false sponsorizzazioni avevano evaso imposte dirette e IVA per 50 milioni di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato della situazione positiva sui mercati finanziari, venduti a tassi in discesa i buoni del tesoro italiani per 3 miliardi. C'era molta attesa per quest'asta che dunque è andata bene. Sul fronte delle liberalizzazioni, mentre il governo è al lavoro, scatta la protesta selvaggia dei tassisti che bloccano il servizio a Roma, e invece l'esecutivo vara un giro di vite sul sulle auto blu delle istituzioni e degli enti locali. E poi sul fronte mercato del lavoro, raggiunta una posizione unitaria da parte di CGIL, CISL e UIL, pronte al confronto con il governo, ma dicono senza articolo 18. Adesso le altre notizie. È stato rintracciato nella notte dalla polizia locale milanese il SUV che potrebbe aver investito il vigile urbano Savarino, travolto e ucciso ieri sera nella zona nord della città. Il pubblico ministero di Milano, Mauro Clerici, titolare delle indagini, ha detto oggi ai giornalisti che non ci sono stati fermi e che non sono stati individuati ancora i presunti responsabili dell'investimento. Il magistrato ha spiegato che al momento non si sa dove siano fuggite le due persone che hanno travolto l'agente di polizia locale. È in corso l'identificazione ancora dei responsabili, ma ricostruiamo che cosa è accaduto esattamente ieri sera. Sono le 18:10. Un vigile milanese effettua un controllo in un grande parcheggio nel quartiere Bovisa. A chiamare Nicolò Savarino, 42 anni, questo è il nome del vigile, era stato al telefono un cittadino che segnalava la presenza in un parcheggio di un camper abitato da alcuni rom sinti italiani. I vigili si presentano per un controllo. Dal camper scende un uomo con una stampella. In quel momento passa un'auto che colpisce di striscio l'uomo. Uno degli agenti, Nicolò Savarino appunto, fa in tempo a mettersi per traverso per impedire all'auto la fuga. Il conducente lo trascina per circa 200 metri. Il vigile morirà mentre viene trasportato all'ospedale Niguarda. Scattano subito le ricerche, lavorano tutti al caso, carabinieri, polizia, vigili urbani. Alle 4 di notte il ritrovamento del SUV in via Lancetti. Ora ci sta lavorando la scientifica. Il vigile Savarino era molto amato dalla gente e dai colleghi. Era una persona tenace e generosa. Aveva indossato con grande orgoglio la divisa da vigile urbano nel 2001. Era, raccontano gli amici, il suo sogno fare il vigile. Nato ad Agrigento, viveva a Rho. Nel tempo libero faceva volontariato e coltivava un orto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si litiga sempre più spesso per un sorpasso, un parcheggio o una precedenza e a volte, come è accaduto anche ieri sera, le discussioni degenerano in violenze. I dati raccolti sulla strada dalle forze dell'ordine registrano quindi un incremento dell'aggressività da parte di chi è al volante, con un'impennata soprattutto delle aggressioni proprio nei confronti degli uomini in divisa. Era stato questo il tema di un'inchiesta, Ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. E allora ecco un estratto dell'intervista a Giordano Biserni degli Amici della Polizia Stradale. La strada è il terminale dove si scarica a volte una tensione che è quella della vita quotidiana. Veniamo alle aggressioni agli agenti. Sono in aumento? Dove si verificano più spesso? Complessivamente noi già a metà novembre abbiamo registrato 1961 aggressioni. Praticamente abbiamo già quasi raggiunto la cifra totale dello scorso anno. Al nord abbiamo circa il 35% degli episodi, al centro il 24%, al sud il 41%. Nel 33% dei casi il conducente risultava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Un'altra indicazione è quella dell'utilizzo delle armi improprie o di aggressione nel 22,6% dei casi. Poi c'è una percentuale che deve farci riflettere. Bene, in 742 casi su 1961 l'aggressore è uno straniero, pari al 37,8%. Quindi aggrediscono di più gli stranieri che gli italiani? Aggrediscono di più gli uomini o le donne? Assolutamente di più gli uomini, anche se ultimamente, e questo lo vediamo anche nella pirateria stradale, il ruolo della donna si sta modificando. E ancora con la cronaca, c'è stato un fermo per il tentato omicidio di Francesco Bianco, l'ex militante dei NAR, ferito il 2 gennaio scorso da 3 colpi di pistola nei pressi del centro termale di Bagni di Tivoli a Roma. Sentiamo. Dissidi interni, una diversa visione politica sulla gestione della sede storica della destra romana di H. Larenzia. Questo dietro il ferimento di Francesco Bianco, ex militante dei NAR, gambizzato in strada lo scorso 2 gennaio vicino Roma, a Tivoli. A sparargli alle gambe quella notte, secondo la ricostruzione della procura di Tivoli, potrebbe essere stato Carlo Giannotta, responsabile della sede autonoma di H. Larenzia. Giannotta è stato fermato stamani dai carabinieri, deve rispondere di tentato omicidio. È sospettato di essere uno dei due uomini che a bordo di uno scooter ha avvicinato Bianco la sera del 2 gennaio e gli è esploso contro 3 colpi di pistola che lo hanno raggiunto a gambe e braccia. Giannotta, 58 anni, appartiene alla stessa area politica di estrema destra di Bianco. Entrambi frequentano la sede del quartiere quartiere tuscolano, ex base del Movimento Sociale Italiano, teatro di una strage nel 1978. La stessa sede di H. Larenza è stata perquisita oggi, così come la casa di Gianluca Iannone, leader di Casa Pound, portato in caserma per accertamenti assieme con altri militanti di destra, ma l'unico fermo resta al momento quello di Giannotta. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora una busta con minacce questa mattina alla sede Equitalia di Torino. Il plico indirizzato in via Santa Maria 9 conteneva una polvere nera sospetta. A scoprirla sono stati alcuni dipendenti. Subito è scattato il piano d'emergenza con l'intervento del nucleo dei vigili del fuoco specializzato in interventi di questo genere. L'operazione ha comportato la chiusura del traffico della via fino all'incrocio con un'altra strada, via Stampatori, appunto, sempre a Torino, ma per ora non si hanno notizie di danni a cose o persone. Una impiegata della ASL di Pavia, falsa cieca, è stata arrestata con l'accusa di corruzione e truffa. La donna, Guiduccia Massolini, questo è il nome, di 51 anni, è indiziata, quale ha detto all'ufficio invalidi, di avere istruito 135 false pratiche di rimborso per accompagnamento o malattie inesistenti, emettendo relativi ordini di pagamento e facendosi poi corrispondere il denaro dai beneficiari. Crescono le adesioni all'iniziativa delle associazioni A Sud e StopAndrangheta.it a sostegno di Giovanni Tizian. Parliamo del giornalista della Gazzetta di Modena minacciato dalla mafia. Tutte le informazioni di questa campagna le trovate sul sito www.iomichiamogiovannitizian.org. Nel servizio però scopriamo chi è questo giornalista che sfida le mafie del nord. È umano provare la paura, ma dopo ieri, insomma, so di avere un muro che è la società civile, che è le istituzioni, insomma, è importante perché rispondiamo a chi vorrebbe farmi del male. Questo è il nostro territorio e siete voi quelli che non ci dovete stare, ecco. Ha ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà Giovanni Tizian, giornalista precario di origine calabrese, lavora per la Gazzetta di Modena e per altre testate, per cui scrive di mafia e delle sue infiltrazioni al nord. Dal 22 dicembre scorso è sotto scorta perché minacciato dalla criminalità organizzata. Nel 1989 l'Andrangheta uccise suo padre, funzionario di banca, a Locri, mentre tornava a casa dal lavoro. L'anno prima le cosche avevano incendiato la fabbrica di suo nonno. Io avevo 7 anni, molto piccolo, ricordo solo che quella sera non tornò a casa. Dopo 3 anni da quella data siamo emigrati verso il nord a cercare un po' di normalità. È stato forse proprio grazie al lavoro di giornalista che facevo che mi ha dato la forza di guardarmi indietro e di dire recuperiamo quella storia. Perché mio padre è uno dei tanti casi risolti nella Calabria. Tizian lavora per 4 euro ad articolo, 20 se si tratta di un'inchiesta. I giovani cronisti che lavorano a questi temi, ci dice, vivono una doppia vulnerabilità, ma aggiunge, io non mi fermo. Vado avanti con la passione di scoprire, di ricercare, però alla base c'è una doppia vulnerabilità, proprio perché devo girare con la scorta, e l'altra parte riguarda appunto la precarietà economica, quindi non si è mai tranquilli, però insomma continuerò a fare questo in ogni condizione. Vado avanti nonostante i mafiosi, nonostante la precarietà, ecco, questo è certo. Maria Luisa Pizzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di Milano e di un progetto che investe una zona degradata da molti anni, e chiunque è andato in centro a Milano nella zona dei Navigli se ne è accorto. 175 milioni per un progetto che coinvolge acqua, piste ciclabili e verde. Milano si prepara a ritrovare le sue originarie vie d'acqua partendo innanzitutto dalla riqualificazione della Darsena, e questa la zona di cui parliamo. Un progetto che fa parte di Expo 2015, illustrato dal sindaco Giuliano Pisapia. Sentiamo. Entro l'estate ci sarà la gara per l'assegnazione dei lavori, entro dicembre partiranno finalmente i lavori ed entro il 2014 restituiremo ai milanesi un gioiello che purtroppo in questi ultimi anni è stato o dimenticato o deturpato. Questo progetto di riqualificazione della Darsena rientra in un unico disegno, insieme anche al progetto di Area C, un'impostazione più ecocompatibile della città? questo è un tassello di un progetto molto più ampio per rendere la città più vivibile, più attrattiva per i turisti e per i milanesi, e quindi anche più ecologica e più verde. Parliamo di area CIS, partiremo, come abbiamo detto, faremo un monitoraggio mensile della situazione sulla base di dati oggettivi. Anche nelle assemblee dove ci sono manifestate dei dissensi, sono dissensi che riguardano dei specifici situazioni, mentre rispetto all'area C c'è un grandissimo consenso che è la conferma di quanto era stato deciso dai milanesi nel referendum ecologista. E siamo quasi in chiusura, parliamo delle fibrillazioni del calciomercato che investono soprattutto il Milan. Questo è il ballo del quaffa. Le battute si sprecano. La più bella è che questo è un affare sui genero, riferendosi al fatto che Pato è fidanzato con Barbara Berlusconi e che sia stato proprio Papi a bloccare al momento della firma il trasferimento del bomber brasiliano al Paris Saint-Germain. Ma in questo caso, più che alla famiglia, Berlusconi ha pensato da presidente. La cessione del papero non gli garbava, sia perché è poco vantaggiosa nel dare e avere con Tevez, sia perché non è gradita ai tifosi, cui Berlusconi, da piaccione qual è sempre molto sensibile. Tutti i tifosi infatti sono ancora innamorati di Pato, nonostante i suoi muscoli di seta e quell'aria da cucciolone amoroso che tanto disturba Allegri e Ibrahimovic. Questo è il ballo del quacquà, come il papero che sa. E ora che succede? Lo stop di Berlusconi, che ha bloccato in extremis anche l'acquisto di Tevez, ha diverse ricadute. Lo spiazzamento di Galliani e Allegri, che devono mandare giù il rospo, e il ritorno in corsa dell'Inter per l'argentino. Il tutto a 2 giorni dal derby. Vedremo cosa succede, tutto è possibile. Sia un nuovo ribaltone, sia un gol di Pato all'Inter che chiuda il dibattito, ma solo per un giorno, perché nel calcio di definitivo c'è solo il calcio. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo alle borse e poi all'Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.